sorseggiare quello bianco, sei balzata sul tavolo. Ed io, ed io, ed io, mamma mia, che calore nel vederti volteggiare. Stavolta vengo lì, ma ti prego lasciami parlare. No, no, non è giusto chiamarti amore. Se, se, non conosco neanche il tuo nome. Dai, dai, vieni giù che facciamo festa. Mai nessuna, dico nessuna, mi ha mai dato così alla testa. Sì, lo so, sono uno sul 900. Basta, no, se mi aiuti facciamo centro. Per lei, anche a piedi dal polo nord, se tu fossi al polo sud, io per te darei un calcio al mio spero mondo, per seguire soltanto il tuo. Io con te verrei, voglio solo le mani tue, quando stringono nella notte le mie. Dammi un try, questa volta ci proverò, perché sei un ingamma, baby, in night. Morire mi fai, baby, in night. Morire mi fai. Ai, ai, ai. Volta ci proverò, perché sei unica, ma baby.